Quintuama vivemus in nos spontanis, a sena qui coitas nos tolle tempestanis. In estrum motu a virgen maravilia qua mania, non ponemus tra utru santu noma de Bretania. U foi livra una nove buia gran compagna, domeis pur sa probus carnu che tu dus pugnalis. Quintama vivemus in nos spontanis, a senar qui coitas nos tolle tempestanis. Eus in bradam perum arata fois aventura, qui se levum vigra tormenta et a noite scura. Se fesce venolis valiat isun in cordura, et udus qui la lombure desertus abiades. Quintama vivemus in nos spontanis, a senior qui covitas nos tole tempestades.